radio flash, però stavi anche mancando in radio. E K non c'è più sempre, se forse manca, quindi la sta mantenendo una parte metallica, è già un miracolo che non unisco. Infatti il coso deve mettere a zero, la bruscazione è quasi a zero, è quasi un punto circuito, quel cazzo è forte. Magari nessun altro oggi in radio per darti un controllo migliore, ecco. Sì, infatti. Faccio una prova, però probabilmente non esca. Aumento la potenza, vediamo cosa succede. Buonasera a tutti, qua in distorsione totale. Anche io non riuscivo a capirlo bene, io ho detto la radio è un po' così perché non... mi arriva anche basso di segnale, capito? Quindi non riesco a capirlo bene. Ciao Marco, com'è in distorsione totale per la saturazione o che cosa? È come se fossi sbarellato in FM, con una... è come se tu fossi in FM con un'emissione fortissima, quindi aumentato di kilohertz, però ricevendoti in AM, una cosa del genere. Distorsione totale, dai, scusate, sto mangiando, rimango in ascolto. Se dovete fare prove chiedetemelo, dai. Ciao Massimiliano, Luca, non so chi altro c'era, ciao. Brutta, non te lo so definire. Massimiliano, ma da te è migliore di modulazione, forse perché ti arriva più basso. Qui è 9.15, ma la radio è mai sentita così brutta. Di solito Gianfranco, bene o male, con modulazione se la cava, oggi non ci siamo, NCS. Sì, ciao Marco. Il segnale, guarda, da me mi arriva Santiago 4, fatti i conti, io c'ho un po' di QRM 2-3, la modulazione, ma glielo ho detto subito, era brutta. No, in genere lo ascolto sempre così come segnale 5-6, però la radio, anche se lui usa pochi watt, la radio comunque è sempre quasi buona, ecco. Però oggi non riesco proprio a comprendere cosa mi risvegli. Ecco, guarda, questo segnale si è aumentato un pochino, e la radio non so se è meglio o peggio, sicuramente è peggio. Guarda Gianfra, da parte mia la radio è bruttissima, così il segnale si è arrivato a 9, quindi... con la segnale si nota, ma la radio è pessima. Vabbè, è comprensibile, se tu mi vedi, è proprio tutto smontato, tutto a pezzi, cioè non vedi neanche il microfono, la barretta praticamente confonde tutti i registri. Va bene, ok, cambio il microfono. Va bene Marco, ma sto parlando, ho finito. Penso che ho iniziato adesso, eravamo tutta la sera fuori. Abbiamo accompagnato in magia, dovevo fare il tampone prima e poi andare a fare la gastroscopia. E siamo dalle 3 già fuori, siamo tornati circa le 7 meno un quarto, 7, così da, tra Riffi e Raffa. Abbiamo preso un piatto pronto per non romperci le scatole a cucinare. E io, oggi non c'è nessuno, io poco sto ascoltando la verità, Massimiliano, ben poco sto ascoltando. C'era Luca prima, c'è ancora? Allora Luca ci stava, si trovava il microfono, che lo so, il TTT, forse c'era una vita mollata, e niente, no, io ho acceso un po' tardi, non ho sentito nessuno, comunque, ma c'è la gente in ascolto. Guardi nel radio, e la butta, ad esempio, guardare c'è il baralazzo, la butta, e non entra. Va bene, no, anch'io, giusto ieri c'era una bella ruota e ci abbiamo fatto un'oretta di radio così. Quindi non è che entro sempre, ecco, capito. Però già va bene anche così, non mi interessa. Mi. Marco, dimmi se va meglio così. Ottima, adesso è tornata normale. Comunque, per farti un paragone, era come se fossi in FM e avessi una deviazione esagerata, ecco, grosso modo. Ciao il profeta, io vi devo lasciare, sono all'ascolto e finisco, cioè inizio a mangiare, poco parlo. Poi per Massimiliano, sì, anch'io non, in realtà non ho voglia di parlare, non ho più voglia, c'è un calo della... po' della, di questo hobby da parte mia. Preferisco ascoltare o qui o banda amatoriale o fare altro, uscire adesso che è zona gialla, sì, gialla lì. Mando avanti il profeta. Quell'X per me, vai Gianni. Ciao, buonasera a tutti. Occhio che dopo la zona gialla scatta la B zona. La zona B, B zona. L'amore vengono via i tiburi. Ok, va, saluto il profeta. Sì, ho già fra adesso il contrapassaggio ultimo, sì, perfetto. Sì, ma vabbè, questo è il suo microfono. Adesso te lo ripeto, anche in condizioni era prima. Per il test era smontato, cioè era smontato. Era appena progettato, quindi bisogna ricalcolare qualche resistenza, qualche condensatore, eccetera, perché io i preamplificatori li fabbrico, quindi questo l'avevo trovato e quindi lo stavo testando. Forse anche alimentato un pochino perché a 3 volt non è che sia un granché. Ciao il profeta, buona serata. Ti rilancio e siccome Marco sta parlando di roba da mangiare mi sono ricordato che anch'io devo cenare, quindi ci sentiamo più tardi magari se ci siete, riprendi profeta. Ciao Gianfranco, buonasera, sì la radio adesso è ottima. Va benissimo, una telefonata, bene, dai, buona carica allora, e niente, io la farò tra poco, e quindi buona carica a Marco e a Gianfranco, avanti Massimiliano. Ok, va bene allora, ciao Gianfranco, buona carichetta anche a Marco, ci sentiamo dopo se coincide, va? Da Bex, ok, va bene Gianni. Eia, sì, adesso... Per quelle modifiche aspetto, per quelle prove aspetto un attimino di tranquillità qua, insomma, voglio fare le cose fatte bene, non si sa mai che della brescia, cazzo mi faccia brutto, quindi preferisco trovare un attimino in cui sono tranquillo e facciamo queste prove, dai. Va bene allora, ok, se vuoi... Poi cacciavite di qualcuno, mi sa che ha bussato Antonio, che sei? Antonio, avanti. Ehi, a capo, buonasera. Buonasera a tutti. Ehi, mamma la poi, vabbè, ha già appena atticcio, agio. Capo, vai. Hola, hola. Se il microfono me gli rende il cattore. Andiamo a mangiare. Va bene, ok, vai e mangi allora, Antonio, ci sentiamo dopo. Ok, vai già. Sto uscendo, sì? Già sto uscendo. Papà, dai, vado a mangiare, dai. Ci sentiamo, ciao ciao. Non so se conosci nel MV4, visto c'è quei cosi che tiene il PTT, quei cosi in plastica, grigi. Stava parlando Antonio sotto. Guarda tu. Ah, forse è già scattato a mangiare, va. Sì, già lo so, magari se no non la triviti all'interno, così. Sì, gli ho messo un coso da un... come si chiama? Uno spessore, ma già è meglio, Meno, rimane più su. Vabbè, mica c'è un perfetto. Ciao già, mi senti, sì. K positivo, sì, tutto bene, forte e chiaro. Ah, ok, dai, va bene. Hola, smetti la dea, hai rotto le balle, è rotto. Hola, aspetta un attimo, 2 secondi, adesso mi fa lock, porca. No, vado, andò. Vabbè, affanculo, si vede. Non fa il lock adesso. Dimmi tu. Metteci una molletta a stare nelle luci. Ehi vabbè, c'è la piglia in luce. No, non c'ho la fa, giù. Ehi, la medifa e la rimongo, Massimiliano. Allora, lo vado a tutti. Che cazzo stai usando, Massimiliano? Via. È la mia radio preferita, non la sento da Atene. No, era da Atene, però, aspetta. Adesso c'ho quello là, Massimiliano, lo sto più accendendo, quello Colt. Lo mandiamo in pensione, a quello. Guarda, agì. Mi ha fatto mi a bordo, guarda, sento bruesi. Oh, vedi un po', lungo te. Ehi, questo cos'è, l'S9, giusto? K, rogero positivo, guarda un po', questo è l'S e poi 9. K, sì, è quella, la mia... la radio che mi piace di più, dai. La compri? Casta Verdi, che non c'ho. Non c'ho soldi per neanche per far ballare mezzo gobbo. Vabbè, per i soldi piano piano, cosa di la fotti. No, dai. Preferisco rimanere così come so, dai, già non mi lamento. Ho visto che mi ha mandato, cos'era l'altro, di Serpente, bella radio lo stesso quella. Ehi, anche quella sì, è bella, bella. Mi domani non lavoro, domani metto in ordine, c'ho due o tre microfoni che non escono, domani mattina mi faccio un po' di spazio qua e me li sistemo tutti quanti, così la cosa è tutta positiva, dai dai. Mi piace molto perché è proprio la classica modulazione da baracchino, quella seria, hai capito? Oggi lì, ora è tutto oggi, allora, cosa oggi puoi fare, ci annegato. Ma toccato è questo qua? Come è toccato? In che senso? Cos'è, originale o è elaborato? No, questo qui, allora, ci annegato. Sì, sì, mi piace. Proprio il sound che mi piace, di questa modulazione. Sì, però sto usando un CTE, è bello anche questo CTE, esce bene, però c'è un altro CTE che ha il cavo molto più morbido e più lungo e fa la radio ancora più forte, domani me lo sistemo quello di KK. Anche questa non scherza, te lo sto dicendo. Mi piace assai come suona, dai. No, gli esce bene questo. Questo era il grande mitico di S9 di Giampaolo Silvestro. Non ho avuto la fortuna di conoscerlo. Vabbè, bravissima persona. Poi l'avevano mandato a Napoli, abbiamo fatto fare un giro di cacciaviti e è tornato qua. Ah, ecco. Ecco che c'era l'inghippo, dai, vai. Positivo, dai, tutta l'oggi. Beh, Luca lì è. Però Luca è agganciato, sta agganciando qualcosa, là. Va bene, io gasso, ci sciuga. Tutti quelli bene sotto la banca, so. Tutti sono magnieni, tutti, non so qui. E vabbè, gente anziana. E adesso un altro paio di passaggi, vado a mordicchiare anch'io, dai, qualcosa che ho saltato il pranzo, non avevo voglia. E quindi adesso mi rifaccio, dai. Vai a mangiare anche tu, a mai da sollotto, non imbagliare, un minuto in più, un minuto in meno. Attenzione, un cosa, se tu ascolti Luca qua, ciao Luca, sì che ti ascolto, io voglia. Va bene? Va bene, va bene. Attenzione, chiami lo profeta, se ascolti Luca qua, Fortissima ragazzi, proprio da 45. Caia. Vabbè. Mi pare, io mi sigaretta fa vedere, io lì sul spagnolo. Quello che sta sempre rompendo le scatole. Ti chi tacca la colita, ma ti vedi le gavetti, che bella. Cosa stai mangiando? Rimetti la banca, Gianni. No, dico, mi devo andare, ancora non sono andato, devo andare. Ah, è moto vai. TS, sa che è suore. Sono ti faccio pedifella agli olio. No, io mi fa un bel gamma lì, arrivi in cugina, devo andare in moto, un peso. Che cazzo, mi due già. E io c'ho la reggia di Versailles. Attenzione, binario 45esimo, sentite qua la digitata la colita. Ho detto, si fa con mamone a mangiare già, ma qui oggi mangiando a pranzo. Ah, un po' di verdura mi faccio, mi sta con la gelo. Che cazzo, si che cazzo, 40 kg mesi. Lei ha manca. Cazzo, ma è pesa, la casa è pesa quanto pesuio, Massimiliano. Ma io l'ho visto, non da molto, però, cioè da molto, l'anno scorso, là, quando gli ho dato qualcosa, mi sembrava un po' mallorino. Non è grasso, ma già più piazzato. Peso forma, Massi, peso forma, dai. Dai, adesso vado, dai, mi lascio che mi mangio qualcosa, casomai ci sentiamo dopo, ok? Sì, la classica frase detta da tutti, ci sentiamo dopo, non mettermi di giù. diciamo che non è pazzicopo, ha detto la, diciamo la tutta, capa. Esatto. Mi diventi pazzicopo per in giro. Va bene, no, allora buona carica di lattuga, fagioli e cose del genere, no. Ci sentiamo dopo, ciao ciao. A da voi. A domani. A bombo, io mi sa, non so se vediamo un po' se ha preparato mamma. Sai che ha fatto il brodo? Brodo di carne, capa. Cappa, cappa, va bene, va bene. Ma cos'è che ti volevo? Ti volevo dire una cosa, ti volevo dire una cosa. Ah, ma è... Saverio, che fine ha fatto? Si è rotto, chi è avanti? Io volevo entrare. Sì, c'è l'animale che scendi male, Antonio. Sta scendo male, Antonio. Maggio, maggio lungoso, maggio. La polpetta in bocca. Ah, so che senti anche per taglio, io, la capsula, ma non funziona più. Ecco come se non funziona il microfono. Antonio, non si mangia come voi, Ma cosa? Ciao, dai, buonasera, buonasera. Ogni tanto mi dà qualche problemino, mi dà, non capisco perché sta facendo così. E mi sa che se filo tocca non tocca, tu, non si dire ne ogni a lungo, magari, bro. Non è dirlo io, non mi preoccupare. Guarda, come metti? Com'è, cavolo, dà qualche problema? Secondo come lo prendi, Basta controllarlo tu, lo apri a vedere cosa può essere successo. Magari sbarazzamento, l'hai tirato un po' troppo. Ci sono ginocchi. Quando lo stringi, quando lo prendi col panomero della mano, tutto potrebbe farlo. Ah, già vedo che funzionendo. Mira, lo vedi. Allora, ne ha tanto lo fate, che facciamo scaldare l'antenna. Tanto, ma non è che l'imbuso di così mi fate la doccia, no? Sei buoni. Lo spruzzino, no? Che magava. Ma dove stai ascoltando, tu? La Puglia, 3940, Radio 5. Che magava, te, non problemi, che magava. Qualcuno è in mia conoscenza, vado, che magava. Ma sei andato in pressa a mangiare tu, 5 minuti per bus. Sta canuccia a mangiare tanto. Lo sapevo. Cazzo, spiata a te. E sembra un commesso che mi ficcavano queste di cose, di pedifella. Ma tanto digerisco anche subito, quindi. Ah, vabbè. Oh, se si sente le lame del taglierini, cazzo, non ne va ancora. Ho inviato un pacco nuovo. Se la mangia di una cosa, no? Ammassa appena appena mi chiedi con la radio, Luca. Guarda un po'. Vabbè, va meglio. Tra l'altro troppo capito. Troppo spinta? Troppo già. Deiaia. Va bene, non ci saranno problemi, capa. Sta drupo. Capa. Sta drupo. Tutto chiuso, sì, Massimilia. Cosa vuol dire tutto chiuso? Ah, lo sento, capa. Ehi, così è tutto chiuso, Luca. Ehi, ma il bip si sente? Ehi, io non lo sento. Cosa vuol dire non lo senti? Aspetta, ah, ecco, da posto. Solo che c'è. Ecco un problemino con questo baracchino. Praticamente ogni tanto non si accende le RX. RX. Boh, non lo so. E se non lo accendi anche quello lì, ogni tanto lo devi accendere. No, la spia, Massimiliano. Adesso, per esempio, sono in trasmissione, deve andare... in trasmissione, deve essere rosso. Infatti lo devo toccare, molte volte no. Però non lo apro, ma un cubullo, no. Qui magari una piccolina saldatura lì sul LED, capito? Niente di più, avanti, bombolo. Vedi che adesso va meglio. Cosa va? Va meglio, vedi. Positivo. Cappa, cappa. Non le può togliere, sennò se va a dire che cosa in occhio, è un casino. Basta prendere quello là, già lo sai. Vedi, no, dico il Vox, ne lo devo togliere, sennò si intendi cicchi cicche. Oh, Danilo, c'è un Vox che non voglio sentire fiago di fava, ieri. Però è comodo, Massimiliano. Ma non ti ne fai nulla. Adesso con quello sì. Via col Vox. Ciao. pagliccio che si scende male. No, quando schiacciavo, uscivo male. Ma Ricco, adesso cosa lo stai usando? Col microfono suo. Ah, positivo, va. Cosa di buono in occhi? Ah, ho preso il tuo metodo, lo sto usando col Vox. Perché questo apparecchio c'è il Vox, non lo sappi? Ah, io lo so che va il Vox. Appa, ma ne devi bugare in occhi, se no si intende a che cosa di notti? Che appa, appa. Se no si intende gnicchi gnicchi, si intende? Hai finito? What the fuck? Ti faccio schierare il telefono! Ti faccio saltare in aria! Ti faccio schiattare le mutande, drogato! 2.4! Brodino di marmo, di magne! Oh, signore, che mi sta chiamando Musere, devo scendere giù, ci sentiamo dopo. Ehi, capa. A dopo, Massimiliano. E beh, Antonio, che sei? Ehi, ciao, Massimiliano. Sei malato, che? Ti faccio uscire luce di fuori. Già si sente che c'è il pompa. E beh, Anto, è tanto. Ehi, che si conta? Ciao anche a Antonio Bombolitto. Capa. Buonasera, buonasera. Salve. Uia. Ti faccio scillucci di fura. Che se non si sente gnicchi gnicchi, così è. Oh, però è comodo, mi. Ma sai che la metteci pure a noi, no? Ti piace, è comodo. Cioè, ce lo devi usare così, cavolo, chi ci non dai andende. Ma ogni tanto si intrippa, si sgancia, si riaggancia. Infatti basta un minimo colpo e si attiva. Non è un granché. Soprattutto se... Hai finito? E beh, lui terminato, vai. No. Ah, ma quindi stai andando per un bel po', mi hai detto una giornata. No, cos'è una giornata? Vabbè, sai com'è, no? Oggi è quello, poi quello non va bene, smartelliamo, poi così non va bene, sai, ora di, da giovedì scorso ci sono. Ma stai facendo un muratore? No, torre in mura. Mi scende il capo, sei lui. Cosa va, Antonio? Ho detto che già lo conosco. Allora, ma chi conosci? A torre in mura. Ah. Ui. Tutto qui, Anto, dai, tutto rocci. Tutto positivo. Sto contento, dai, ti sei contento a gole. Vabbè, asco. Meglio quello che la farebbe a culo. Allora. Va bene, Anto, sì, va bene, mi ascolti bene? Sì, ti ascolto bene, effetto camionista, ma io ti sento bene. Ok, frate, dai, siamo qua, siamo 1-3-1, direi. Io stavo preparandomi un affarino, un cosettino di un amico, uno strumento. Vi ascolto, dai, che sono un rufino più. Sì, il magazzino. Il magazzino, sì. Non ti ho capito, no? Sì, il magazzino. In cosa? In cantina. In cantina, ma vino lo finne. No, poi non è mico vino io. È buono. Tanto se c'è vino buono come dico io, già va bene. Vabbè, io non è che sono amante. La birra la bevo d'estate, più d'estate d'inverno quasi niente, se no un po' non ne bevo. Se no, il vino, se di quello, cioè, mi piace molto il bracchetto, mi cazzo, buona legge. Ma se non è il bracchetto, un vino ma femmine, no? È garantito per ma femmine, cazzo ma femmine, amo un vino pure io. Tanto inteso là, bombo lì, a fare adesso, nicchi e femmine. Io so che no, ghia. Tanto, dici che lo bracchetto è un vino ma femmine, cosa ha detto? Lo bracchetto che lo vino qua femmini, e già le femmini muro già lo che ho cacchetto. È buono bracchetto. Vabbè, a me mi piace chi sul ruglio, che sono di zosso me. A me piace il bracchetto perché rimane dolce, è frizzante, è buono, buono. Poi non mi fa molto male di testa. Molti infini mi fanno male di testa. Lo vino più buono è chi sono pigliato dalla cantina, buono. O chi sono di zosso o chi do di... Quanti si chiama? Ce ne sono tanti vini buoni, Cosa risè? Ho detto, ho visto di sosso, ho visto di Blattamola. Allora, quello di Usini, vabbè, se Marina, la mia compagna, c'ha la cantina, la cantinetta per loro, vino che fanno loro, buono, vino senza, mi medicina. E anche mio padre non lo fa, Itri, ma non si immobilica tre forse. Poi c'ha questo vino invecchiato 3 anni, praticamente rimane un bel giallo, come più o meno come l'urina, un bel forte, per carità, nonno. Sì, infatti così poi inizia a diventare più verso il cognac. Bravo, esatto, c'ha un saporaccio di... c'è un saporaccio di, come si chiama, di acquavita. Sì, perché sono molto, hanno un contenuto alto di sia di alcol che di zucchero. Eppure gli sono come, ma non mi piace così. Poi c'è cagnolari, poi c'è il, l'altro come si chiama, vabbè, il cagnolari, c'è l'altro, il vermentino. Sì, il vermentino non è male. Mi piace, mi. Chi sono questo di Badesi? E mo che forti! No, di Badesi mangio la sabbia io. No, aspetta, perché lì usano la goccia, l'uva, c'ha una gradazione molto alta, capito? Chi ci dice bideggiami? Giovanni se quello di Badesi. No, non ho mai sentito, ma stai scherzando cosa? No, Badesi conosce la sabbia io. No, il vino di Badesi, quello c'ha anche una creazione molto alta, c'ha. Però guarda, il vino di Usi non scherza. Non lo so, quello di Badesi, cioè, non hai mai sentito il vino di Badesi? Io l'ho già bevuto, ma ti gocca, Sì, questo è il vino di Badesi. Però giuro, non sto scherzando. Cioè... mamma mia, ma vuoi bido, Lu, te lo sto dicendo perché è un bel forte, perché lì hanno delle vigne con il vino, prende la creazione un bel forte in quelle zone. Ah, da di più uno dici di gocca. Non ho bisogno di meno, forse mi dai. Sto dicendo una risetta. No, sono ancora ridendo in balastrella della sabbia io. Scusa, cosa aveva Badesi? Sì, il vino di Badesi è come il vino di coso, di Marrita, di Zusso, di quelle terre lì, terreno sabbioso. Ah, ecco. Quello di Badesi, chi c'è di gocca, Io l'ho bevuto, mamma mia, perché prende molto la gradazione, prende, capito? Ti gocca se paghi su burro che sono di Fontana Nieta, dipende da canto di Vabbè, già lo so. No. Drogato! Sta drogato! Sto, importante, manco un QRM si intende oggi. Ma sta usando la boomerang? La boomerang, ebbene no, che faccio la boomerang, cosa tratto? La bombetta, sì, va bene la boomerang, va giù, va, non è che arrivo in capo al mondo, ragazzi, la futti, però va benissimo, stazionaria non la giù più, zero. E anche questa, se non si la bocca rubento, bado. lo so, quando c'è il vero, vabbè, l'ho messa io, lì non va bene. Adesso vediamo un po', dai, non lo so, sono un po' lì, un po' indeciso. Però va più che bene con l'antenna. Sì, no, sono antennine che si difendono e non è che... se sono fatte per essere messe nei balconi, non è fatta per mettere essere messa sul tetto, ma uno la buona dei ribiati, da voi se si vuole, io l'ho anche rinforzata la mia, ma... ripeto, se deve volare, vola. E quando si tira a riga, c'è la piglia il culo. Ma io cosa mi nafotti quando si tira a riga? Già giocato rugavo più lungo io. Davvero, vero? Ti faccio compagnia. E allora, vero, rugavo più lungo, quando si tira a boccia lascio barazzo, già rugavo già parevi una stessa. Ah, comunque la vita, ottima antenna, può essere una mezz'onda così, o quattro onda. No, una mezz'onda, almeno. Così è dichiarata, poi non lo so. E ci andava la campagna. Tanto lì non posso fare nulla. Ma io non posso fare nulla, non vogliamo essere con nessuno, capito? Per carità. Come vanno, stai pensando qualcosa subito a dire e fare, le palle in terra. No, qua a casa mia non ho mai avuto nessun problema per piazzarmi l'antenna. Ma nessuno mi ha detto, anzi mi domanda, cosa è? È baracchino, perché dove è il problema? Mi stai disturbando, è piacere. Fissate, so, questa sera di disturbare. Vabbè, dai, vi ascolto, sono qui che sto finendo questa roba. E no, che non ne comprendere nulla, invece. Ok, Antonio, siamo anche noi qua. Papà, no, qua ho il vantaggio che fino adesso non sanno manco cosa c'è sul tetto. Ma io non gli dico nulla, lo sa, si usa solo padrone di casa e boh, non usa neanche niente. Vabbè. No, qua già lo sanno, non è una lì che mi piace il baracchino, No, lo gioco. No, ma io non dico niente, non dico. Poi se non li sta bene, chi se ne frega. fregate meno, come dicono. Come dicono a Roma. Non c'è chi pone a tra tu cammina, eh. Mi sa giusto stare un gabbo. Già da beh. Già va bene, Anto, già va bene, stamattina, vediamo un po' cosa, cosa dice la, la vecchia, cosa mi ha cucinato. E se no, mi ordino una pizza. Ah, vai Davide. No, che per aggiungere un primo caccia, poi no, che cazzo, ti ricudo una sosa a manganello, cazzo, finalmente è dobbiate. E facciamo vedere il vella. Aspetta un attimo, Anto, arrivo subito, così vado anche a, a cambiare la pagliolife, cara. Cari! Vai, Marco di Gattena! Doveva fare un coso, la bernacchia! Provi 10 stai arrivando, Entra, entra a farvi dare invece di fare la bernacchia, che no, non andava per fare la bernacchia! Oh, oh, oh, oh. Avanti. Andiamo e andiamo, chi è? È bello. Stavo chiamando prima, non c'è di butta. Oh, io aspetta un attimino che... Ecco qua. Stanchezza, cacciò. Allora, le costole, butta. Stavo facendomi la doccia, stavo facendomi. Ma io l'ho fatta alle... Appena sono uscito, là. Alle 5. Radio fatta. Doppia, tripla la giubata, non doppia no, forse quadrupla. Tutto pieno di gazzina. No, è più, non un di più, è tra un naso, è tra la lecce. È proprio un culo. Vabbè, è normale, ci si travaglia. Ma poi se quando tagliamo l'acqua peggio. Ma stai facendo la mele mattonelle, quella roba lì o no? Ria. Chiaffa. E andava piano piano. Già dice vai, ci travaglia, già le batti il cantiere. Vabbè, può essere un medico. Visto che si sa fare il suo, si fa il suo. Vabbè, già gli hai fatti quel lavoro lì. Sì, a voi, dai. Dai 14 anni, 15 anni, da, ho iniziato. Ciappa. E poi tanti che pagano da voi? E se ve ne davate, ci fate tutti lì di puro. Ma chi su sì, Lo sa. Già va bene, tanto. Ma compriamo un panetto da Natale. Tanto va a campare, cosa vuoi fare? Bisogna pure tirare avanti. Beh, certo. Non aspettare niente da nessuno, mai, Anto, mai, perché ormai io mi sono fatto il callo. Già lo so. Anche io non so cosa la faiente. Cioè, partirà da Nanzi, non basso il ricco, ma partirà da Nanzi. Magari avrei voluto qua, avrei voluto qualcosa di meglio, la verità. E il ricco non ci diventa nessuno. Poi c'è quello che magari sta bene, ma non mi interessa. Poi dici tu, vivere la giornata. Avrei preferito averli così, vivere la giornata, che piuttosto di essere così magari benestante, che poi un benestante alla fine va a farsi benedire. Ah, dipende, ma come ti siamo noi, penso proprio di no, per come siamo noi. Poi non lo so. Anche già lo so cosa va fuori di là. Avendone tanti so che cosa fare. Come si dice, pochi, ma vedete subito. Giappa, ma avendone tanti già lo so cosa va. Anche io, tu. L'ultima cosa, ma mi sei comprato un appartamentino per me. Piccolo. Anche io me l'avrei fatta bella la casa. Con tutte le comodità e... che non mi sarebbe mancato niente, prima cosa, poi mi avrei, vediamo, poi proprio qualche anno mi sarei aperto qualche localino bello. Ma tagli auguragli, per carità, no. A battagliare, a travagliare i lasceri, ma tu sai, ma in casciadina. Vabbè, comunque sia, sempre la battaglia con la gente, capito? Che sui pazzinietti, se lo si può ne fa. Allora, diciamo che qualche anno fa con Marina stavo dicendo di aprire un circolo, magari lo fate fare, no? Pa cosa no? Aspetta, aspetta. Se lo fai travagliare come te lo devi far travagliare, già c'è da fece o tanto. Perché sto ascoltando un audio di Marina. Tanto, ma non è manco un baracchino di quelli che abbiamo modificato. Zero. Zero, zero. Chi è quello che ci va di più di tutti? Il Typhoon o l'altro? Vabbè, dopo ce l'ho io. O l'altro? L'87, era 87. Quello che fine ha fatto, altro? Ce l'ha... cosa ce l'ha? Daniele ce l'ha. Ah, capito. Che sparava quello? Minchia se sparava! Fai un attimo, altro, 2 secondi, arrivo. Eia. Mi ha fatto i candelotti. Mi ha fatto dei candelotti in camera. E cosa ha combinato il cucciolo? Cagato. E quindi? E quindi l'ho raccolta. Monella, questa zia. Ma te la porti anche lì, a casa di tua mamma la porti. Allora, la porto. La tengo io, la tengo lì, vabbè. Però la porto qua a casa della mamma, vabbè. Deve stare con me. Già lo so. Scappa. Ui. No, non ne ho la verità, non ne ho preso più, non ne ho comparato più di quelle modificate. Perché tanto cosa andrà a fare? Non venisce uno mai. Magari poi più là me lo dovrà comprarmi, ma non penso. Tu hai ragione, mi sto soffrendo il naso, io ce l'ho mai ancora di... Mamma mia, di coso. Devo usare lo spray, altrimenti non esce. Roba di CV, di Biuba, roba papi. Ma cosa? Un baracchino? No, il naso, non ti stavo soffiando. Ho detto roba di polvere, di cantiere. Ah, sì, è normale. Molto ne va a finire. Per di giorni. Scappa. Fai come muratori. Che ci vuole lì, guru guru tutto vora. Non ho capito. I muratori si pone guru guru vora, si pone quando quando si trova via di un bel vabbè, che ti rimane i pantaloni. Eia, manco pari reggiate. Tu sei radio pesce, mi. Si pure ascolta la volta, ma via il guru pure, noi. Cantano una voce, con chi sa, mi c'è una cosa, la agricoltura è parata. Con chi si, come ti si chiamava, liquidato, come ti si chiamava chi su cannoncino, chi su fusili che dove tirava l'acqua. Quello dove spruzzava l'acqua, la giubilato in pieno, la giubilato, pronto figliolo di me! A cosa? A Francesco là. A Francesco l'ha giubilato. A Francesco? Conosci. Non so chi sia. A pesce. Oh, tu stai scendo a tratti. Ti stavo dicendo, a pesce. Ah. Hai capito che ti ho detto? Ehi, aspetta un attimino. Cappa, dai. Stavo mandando un messaggio. Ehi, cappa, praticamente è successo così. Che io ero giù, giù in magazzino, là, diciamo. Ha giubilato chissà chi su coso, chi su canno, chi su fusile, dopo ci metti l'acqua. Ed è contenti la moto, tutte e due fratelli. Cazzo, ma via, un guru pure, ha giubilato e l'ha giubilato da reddo. Mi è incazzato! Si è così infava, per carità. Cosa? Si è così infava, per carità. Sono un fiacco di fama, vera! Cazzo, la cosa è attaccata a un dramma! Con la caduta alla scia! Ebbene, non la butto, non la vuoi va! Aspetta un attimino, tu apri trovo un microfono, cazzo, perché non mi sta funzionando il lock, aspetta! Ehi, capo, controlla, allora, già sono qua, non ti preoccupare! E non rimane, tu, merda! Ci sei riuscito, Luca? Non rimane, Antonio. boh, ci sta guardando qualche aletta. Ma siccome c'è un testardo, lo controllo, aspetta. Vai tranquillo, vai. Fai con comodo. Ciao.